in primo piano. Giovedì 2 settembre, io do subito l'apertura del Sole 24 Ore dedicata alla finanza, all'economia, alle borse, alla riscossa. Ieri dati positivi sulla congiuntura globale che hanno ridato fiducia ai mercati. A sorpresa accelera l'attività industriale in Stati Uniti e Cina. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, perché per il resto, per quel che riguarda i giornali generalisti, c'è da dire che la politica torna in primo piano. Soprattutto ieri ha parlato il capo dello Stato Napolitano da Venezia e queste poche battute, ma molto efficaci dal punto di vista della comunicazione del capo dello Stato, danno lo spunto per le varie aperture dei giornali. Per il Corriere della Sera, giustizia Napolitano frena. Sapete dirmi dove è finito il DDL sulle intercettazioni? Ha fatto questa domanda molto sarcastica. La Repubblica, processo breve, lo stop del Colle. Per la stampa, crisi, appello di Napolitano. E sul processo breve, ricordate com'è finito il DDL intercettazioni? Il Messaggero, crisi, appello di Napolitano, lo scontro politico verso una soluzione più benigna. Mentre Giornale Libero, si sa, continuano la campagna agostana, anche se siamo a settembre ormai. Fini litiga anche sui pullman, questo è il giornale, perché in vista del discorso di Fini a Mirabello domenica se ne sono viste delle belle, tra poco vedremo cosa. Mentre Libero, cessate il fuoco, il pianto di Fini, viene rappresentato Fini con una bandiera bianca di resa. Il Fatto Quotidiano invece, ve lo segnalo, ha un duro attacco a Schifani. Non sono nuovi al Fatto Quotidiano, credo che il Presidente del Senato li abbia anche querelati in passato per un altro articolo inchiesta. Schifani e lo strano cliente. E poi anche Passera, la banca e l'hotel. Due storie che riguardano il Presidente del Senato e il banchiere Corrado Passera in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Oggi. Allora, come detto, io inizierei la politica. La politica sta vivendo un momento molto strano. Giustamente Francesco Verderami sul Corriere della Sera, pagina 3, usa questa immagine. Forse se siete abituati a vedere il ciclismo, quello non su strada ma su pista, no? Quando due pistar stanno per lanciare l'ultimo giro di rincorsa, ma nessuno dei due sono in surplus, nessuno dei due vuole partire per primo. Ecco, secondo Francesco Verderami, in questa situazione sono Fini e Berlusconi. Tutto è sospeso perché domenica Fini parlerà alla festa di Mirabello. È la prima uscita pubblica, a dire la verità farà un'uscita pubblica il giorno prima, la serata prima, a una festa di partito dell'API. Però diciamo che il primo discorso ufficiale è atteso proprio domenica a Mirabello. Che dirà Fini? Da qui dipenderà molto del rapporto tra Fini e Berlusconi. I cofondatori al bivio. La mediazione di Alfano, questa pagina 3, proprio Francesco Verderami, nessuno dei due, Fini e Berlusconi, vuole assumersi la paternità della rottura definitiva, siccome entrambi sanno che avrebbero molto, se non tutto, da perdere. E se il Premier temporeggia, dicendo resto in attesa del discorso di Gianfranco, il Presidente della Camera assume un atteggiamento speculare, resto in attesa delle mosse di Silvio. Insomma, scrive Verderami, Fini a Mirabello non si chiamerà fuori dal PDL, sebbene il caso della casa di Monte Carlo l'abbia lasciato il segno. Eviterà di farsi trasportare dall'umore, rivendicherà il diritto a far politica nel partito con punte aspre, ma senza arrivare allo strappo. Se vuole, lo faccia Berlusconi. Tanto che ieri anche Bossi, in questa frase ricordata sempre dai vari giornali, ha detto «Vedremo cosa dirà Fini domenica». Sta di fatto che tutti sono in attesa di quello che dirà Fini domenica e da quello, secondo molti, dipenderanno anche i destini futuri del rapporto Berlusconi-Fini e Berlusconiani-Finiani. Secondo La Stampa, loro scrive Fabio Martini nel commento politico che inizia in prima pagina e poi continua a pagina 2 e 3, addirittura Fini avrebbe parlato con Bersani. Fini chiama Bersani pronti alla crisi davanti agli ultimatum. Nel suo discorso di Mirabello, come ha preannunciato a Bersani in una telefonata, scrive Fabio Martini, Fini dedicherà un passaggio alla legge elettorale facendo una proposta di superare l'attuale normativa approvata poco prima delle elezioni del 2006. A Mirabello parlerà anche e come di processo breve, contando sulla sponda politica della Lega. Quanto potranno reggere i capi leghisti e il ministro dell'Interno con il loro elettorato su una questione delicata come l'azzeramento di migliaia di processi in corso? Questo sarebbe il ragionamento che sta facendo Fini. Insomma, secondo la stampa, Fini ha confidato a Bersani che c'è una pregiudiziale insormontabile, una sorta di non possumus, ma possumus. Mai nessun accordo si farà col PDL se prima non cesserà e definitivamente la campagna mediatica nei suoi confronti. Che farà, che dirà Fini a Mirabello domenica? Questa è la domanda che si pone la politica e da qui si vedranno molti dei destini futuri. Intanto però vi lascio con quello che scrive Repubblica in prima pagina con Claudio Tito, sempre il commentatore politico, sempre anche molto attento a quello che succede a Palazzo Grazioli attorno al premier Berlusconi. Il titolo di Repubblica è molto chiaro, è un virgolettato di Berlusconi. In questi casi, come al solito, non sono frasi pubbliche, ma sarebbero, sono dei retroscena. Berlusconi: non mi fido, si vota a marzo. Questo è il titolo di Repubblica di pagina 3, da cui ripartiamo dopo il pubblicità e il meteo. Alle 7:34 minuti eccoci di nuovo in diretta alla lettura dei giornali. Come detto, la politica in primo piano e Repubblica: non mi fido, si vota a marzo. Questo è il titolo, un virgolettato attribuito a Berlusconi nel commento di Claudio Tito. All'accordo non ci crede, dei finiani non si fida, le elezioni a marzo sono quasi inevitabili. Berlusconi non vede più spazi di manovra, il percorso che porta a un'intesa col presidente della Camera è strettissimo, anzi, nonostante il battere d'ali delle colombe, lo considera sbarrato, al punto di preparare una vera e propria roadmap che porti al voto anticipato in primavera. Scrive Claudio Tito: il Cavaliere è pronto a un passo indietro solo in presenza di una totale adesione dei finiani al testo sul processo breve. Ma non mi pare che questo sia il loro orientamento, anzi mi risulta il contrario. Non mi fido di loro. Ed ecco che Berlusconi sarebbe pronto a dire: la roadmap si vota a marzo. Il tema è sempre quello, la giustizia, in particolare il processo breve, che è in primo piano, che torna di volta in volta in primo piano. Oggi Donatella Stasio sul Sole 24 Ore, già lo faceva ieri, ma anche oggi ci ritorna, presenta tutte quelle che sono anche le variazioni, la mediazione che sta cercando di fare il ministro della giustizia Alfano, che domani andrà a incontrare al Quirinale il capo dello Stato, Napolitano. Scudo o scudisciata? Così inizia Donatella Stasio oggi a pagina 15 del Sole. L'interrogativo non sembra peregrino alla vigilia del faccia a faccia al Quirinale tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia. Il Capo dello Stato vuol capire qual è e se c'è il progetto del governo per risanare il sistema giustizia e come mai vengano oggi riesumati vecchi scudi che rischiano di trasformarsi in scudisciate al sistema giudiziario, tanto da essere stati messi su un binario morto un anno fa, per far strada ad altri scudi come il lodo Alfano, il legittimo impedimento, il lodo Alfano bis. Perché oggi invece di guardare avanti si guarda indietro? Perché si ripropongono riforme senza essere accompagnate da affidabili valutazioni d'impatto e adeguate misure finanziarie e organizzative? Interrogativi imbarazzanti, tanto che nel PDL si vocifera anche di un piano C. Ieri eravamo rimasti al piano B, per chi tenta di seguire tutta l'evoluzione di questo procedimento, di questo disegno di legge, che si era appunto arenato un anno fa, tanto che ecco che arriviamo, e così si può capire la battuta molto salace che il capo dello Stato ieri ha fatto a Venezia, quando ha chiesto ai giornalisti: scusate, sapete che fine ha fatto il disegno di legge sulle intercettazioni? E i giornalisti a fianco gli hanno detto: beh, è finito su un binario morto. E Napolitano ha detto: ecco, appunto, in maniera molto ironica. E poi Napolitano ha anche aggiunto quella che è un'altra frase, devo dire, condivisibile: la priorità sia l'economia. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, ma non lo diciamo perché siamo alla radio del Sole 24 Ore, lo dicono un po' tutti. Anche Avvenire oggi ci titola: pensiamo alla gente, lo traduce così in prima pagina, pensiamo alla gente, l'apertura di Avvenire. Per il presidente la fase politica è più benigna, la ripresa va sostenuta. Certo, la giustizia è un problema reale, l'economia E l'economia vuol dire tutto, anche sostegno alle famiglie, forse lo sono anche di più, o sicuramente lo sono molto, lo è una priorità. Tanto che io voglio ricordare, non è molto distante dal sondaggio di cui ci occupiamo oggi, cari ascoltatori, perché noi oggi ci occupiamo di fare figli e abbiamo scoperto, e nella notizia, che negli Stati Uniti siamo al tasso demografico più basso degli ultimi 100 anni praticamente, cioè non si fanno più figli per la crisi economica, questo è uno dei fattori. Noi vi chiediamo, avete rinunciato o rinunciate o pensate di rinunciare a un figlio per questioni economiche, perché pensate di non farcela? Quanto costa un figlio? E quanto è importante anche da questo punto di vista politiche a sostegno di queste cose importanti. Dovete votare su Radio24.it, ne parleremo poi alle 8.30. Napolitano ha detto la priorità sia l'economia. Mentre sembra sicuramente che in primo piano per il momento sia il tema della giustizia, che è il tema dello scontro o del confronto, che avrà un momento importante domenica a Mirabello, come detto, quando Fini prenderà la parola alla festa di Mirabello. Su questa festa di Mirabello c'è un giallo che oggi è sviluppato dai giornali. Fini litiga anche sui pullman. Questo è il titolo di apertura del giornale, perché la fondazione Generazione Italia, vicina ai finiani, vicina a Fini, ha svelato, o a meglio ha rivelato, una cosa che mi ha dato su tutte le furie il ministro del turismo Brambilla, che li ha querelati, cioè il ministro Brambilla starebbe organizzando, secondo una denuncia, alcuni pullman di contestatori affini. Oggi il Secolo d'Italia, che per la verità non è uno di quei giornali che vende decine di migliaia di copie, ma in questi il giornale ex di Alleanza Nazionale, il Secolo d'Italia, diretto da Flavia Perina, parlamentare e finiana, squadristi della libertà, così titola e racconta in un'intervista la storia di Vitale Mattera, militante del PDL, che ieri dice: sono stato contattato da Francesca Pascale, consigliere provinciale del PDL a Napoli, organizzatrice del club Silvio Mi Manchi, Silvio Ci Manchi, e mi ha detto: dobbiamo organizzare un pullman con 50 persone per andare a Mirabello. E io so che Francesca è una berlusconiana doc, quindi le ho chiesto a cosa servisse il pullman. Lei mi ha risposto che serviva esattamente per fischiare e contestare Fini nel momento del suo intervento. Sono rimasto interdetto, ho messo giù il telefono e ho contattato Generazione Italia per avvisarli. Da qui è nato tutto. E chiede il Secolo d'Italia: scusi, ma era la Pascale in persona che organizzava il tutto? En passant, la Pascale ha fatto il nome della Brambilla. Ha detto che era la Brambilla che stava organizzando i pullman per Mirabello. Michela Vittoria Brambilla ha un diavolo per capello, si può dire, perché in un'intervista al giornale a pagina 3 dice: io non ho mai querelato nessuno, neppure Marco Travaglio, che evidentemente ha usato con lei in passato espressioni che secondo la Brambilla potevano essere passibili di querela. Però questa volta, appena ho sentito questa storia assurda, ho chiamato il mio avvocato e dunque ha querelato Generazione Italia. Michela la rossa di rabbia, chiede Paola Setti, l'intervistatrice. Ma no, ci vuole ben altro per farmi arrabbiare, ma non permetto a nessuno di diffamarmi. Mi hanno accusata di comportamenti totalmente estranei a me. Non è un esercizio che voglio fare quello di capire da dove nasca questo delirio. Hanno la coda di paglia, si sono fatti autogol, insomma, il delirio finiano lo definisce così, pronte squadre PDL contro di noi. Sta di fatto che il clima è questo, addirittura sul Fatto Quotidiano c'è una dichiarazione di Luca Bellotti, onorevole finiano, che dice: la Brambilla sta organizzando i pullman per contestare Fini? Bene, bene, non c'è problema, vengano, non hanno capito che siamo missini. Insomma, minacciando di essere pronti a far andare le mani se serve. Sapete, il confronto dunque è sul tema giustizia, è sul tema l'economia e la ripresa, è sulla questione il rapporto Fini-Berlusconi. Siamo rimasti sempre qui, ma tenete duro fino a domenica, non è che domenica Fini parlerà e si scioglieranno tutti i dubbi di quello che succederà, un procedimento lungo, Filippo Facci su Libero la chiama una partita a scacchi, però certo uno snodo importante sarà domenica. Per quel che riguarda la politica invece, io dico di colore, oggi trovate su tutti i giornali la storia del presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Edward Ballaman, leghista doc. La sua storia la racconta, la leggo da Gian Antonio Stella sul Corriere, ma davvero c'è ovunque. Ballaman, leghista, recordman dell'auto blu, parenti e ristorante, 70 viaggi illegali. C'era da andare a prendere i parenti della moglie all'aeroporto? Autista, la macchina! Voleva vedere la partita di calcio Padania-Tibet? Autista, la macchina! Era invitato a pranzo dai suoceri? Autista, la macchina! Finché tutti questi viaggi poco istituzionali sono finiti in un dossier della Corte dei Conti. Protagonista appunto il presidente del Consiglio regionale del Friuli, Edward Ballaman, della Lega Nord. In una dettagliatissima ricostruzione dell'uso disinvolto dell'auto di servizio da parte dell'alto esponente del Carroccio, pubblicata dal Messaggero Veneto, si parla di una settantina di missioni dure da spacciare come dovute a obblighi d'ufficio, frequenti trasferte a casa dei genitori della fidanzata e poi moglie, una puntata a Jesolo da un notaio per un rogito appartamento al mare, una serata con la fidanzata al ristorante, un viaggio all'aeroporto di Venezia con fidanzata per accogliere nonna e zio di lei in arrivo dal Sudafrica, un dettaglio spicca sugli altri. Nella lista due trasferimenti a Malpensa. Partenza viaggio di nozze, rientro viaggio di nozze. Come Giuseppe Buzzanca, ex sindaco di Messina, una vicenda del genere gli costò proprio la carica di sindaco. Qual è la differenza? Chiede Gian Antonio Stella, che di là c'era il solito terrone della solita terronia che si prende i lussi della casta. E di qui invece un virtuoso padano dedito al bene comune, costretto dalla forza degli eventi a utilizzare l'auto blu per il più personale di tutti i motivi personali. Difficile da sostenere questa tesi. Insomma, Edward Ballaman, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, uno che già in passato aveva fatto notizia perché si presentava in consiglio con, o meglio negli uffici, con una 357 Magnum, una pistola, dicendo tranquilli comunque non la porto mai in aula, passeggiava con un revolver sotto l'ascella. È accusato di avere utilizzato in maniera abbastanza poco ortodossa l'auto blu a disposizione. A proposito di auto blu, si lega questo prima del traffico. Che ti combina invece il sindaco di Sanremo Zoccarato, Maurizio Zoccarato, sul Secolo XIX, lo leggiamo in prima pagina. Viene però accusato di essere un po' un personaggio, anche un politico, dedito a manifestazioni molto molto scenografiche. Il sindaco Zoccarato ha scoperto che per quel che riguarda le auto in dotazione al municipio mancano all'appello una novantina tra auto blu, moto blu e camion blu, e allora martedì prossimo ha deciso di radunare nell'area del Luna Park, nella mattina di martedì prossimo, tutte le auto in dotazione del comune. Via con le prescrizioni, schedatura uno per uno di tutti i veicoli in dotazione, una sorta di raduno di martedì 7 settembre per capire se qualcuno si sta fregando, utilizzando in maniera improvvida un'auto blu. Sarà forse Edward Ballaman? No, questo ovviamente no, visto che sta in Friuli Venezia Giulia. Il traffico. Vi voglio segnalare per la politica internazionale due interessanti interviste. Parlò finalmente il ministro degli esteri, Franco Frattini, e parla ovviamente della vicenda Gheddafi, ma non solo. A pagina 7 della Stampa, intervistato da Antonella Rampino, Gheddafi ci apre le porte in tutta l'Africa, risponde alle critiche, i rapporti che l'Italia ha con Gheddafi non li ha nessun altro paese. Quanto alle ragazze, lo show, no? Che ha fatto Gheddafi. So dalla figlia di un mio amico fraterno che era lì per caso che Gheddafi ha parlato di un Islam che deve essere europeo e non di un'Europa da islamizzare. In Italia, sa qual è il problema? C'è un atteggiamento da colonialismo di ritorno. Invece Gheddafi è un leader arabo. Sulla mancata richiesta di domande sui diritti umani risponde Gheddafi: puntando il dito contro la Libia non si ottiene nulla, noi non l'abbiamo mai fatto, anche per questo possiamo raggiungere risultati. Insomma, Frattini respinge le critiche, non mi faccio impressionare dalla frase sull'Europa islamica, era folklore. Questo è la risposta di Frattini, mentre un'altra intervista interessante la trovate pubblicata sul Manifesto. per la verità non è fatta dal Manifesto, ma è fatta dal quotidiano La Jornada di Città del Messico, parla per la prima volta, un giornale straniero dopo vari anni di malattia, Fidel Castro. E tra l'altro in questa lunga conversazione, abbastanza in ginocchio, cioè una conversazione in cui viene molto venerato quasi Fidel Castro, il comandante, in questa intervista. E il punto più interessante è quello in cui Fidel Castro, lo leggete sul Manifesto a pagina 8, dice che è stato un errore la cacciata dei gay, degli omosessuali a Cuba. Sono stati momenti di una grande ingiustizia, chiunque l'abbia commessa. Come chiunque l'abbia commessa, voglio dire, pare che sia lui a capo di Cuba. Sto cercando di precisare la mia responsabilità in tutto questo, ecco, perché oltretutto personalmente io non ho questo tipo di pregiudizi. Dunque il mea culpa di Fidel Castro, la mia ingiustizia, la caccia dei gay a Cuba. Ma comunque è una bella intervista che il Manifesto pubblica, prendendo da questo quotidiano di Città del Messico, la trovate a pagina 8. Per quel che riguarda i temi di cronaca, oltre alla politica c'è anche questo tema sulla questione pedaggi autostradali. Io vi ricordo che tra l'altro dopo il GR delle 8 avremo ospite il ministro Altero Matteoli, parleremo di politica, dei temi del processo breve, dei temi di Mirabello di domenica. Parleremo sicuramente, una domanda anche sulla questione dei rincari, dei pedaggi che erano stati previsti dalla manovra economica pre-estiva e che sono stati, in virtù di alcuni ricorsi, sono stati bloccati dal Consiglio di Stato. Stop ai rincari dei pedaggi ANAS, questo lo trovate nella prima pagina di Economia e Imprese del Sole 24 Ore, con Nicoletta Cottone che racconta come il Consiglio di Stato abbia confermato il no ai caro pedaggi ristabilito dalla manovra sui raccordi stradali e autostradali ANAS. Però, attenzione, solo sulle tratte per le quali sono stati presentati i ricorsi. Si tratta di 11 tratte su 26, sono quelle di Roma, Rieti, Pescara, tanto che, vedete un po' la Padania, pedaggi, prima pagina, paga solo il Nord. Incredibile sentenza, il Consiglio di Stato blocca gli aumenti autostradali ma solo per le province di Roma, Pescara e Rieti. La Padania continua a essere munta. Non è proprio così, cioè è così la notizia, ma il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso solo per coloro che lo hanno fatto il ricorso e quindi vale solo per le tratte per le quali è stato proposto un ricorso, per le altre tratte no. Il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, in un'intervista all'Unità, dice: ora il governo deve scusarsi con i cittadini, c'è tutto il tema dei rimborsi, l'ANAS darà i rimborsi oppure no? Per il momento pare di no, in attesa della sentenza definitiva del giudizio di merito. Il Codacons dice: e allora minacciamo la class action. È un tema interessante, nel senso che riguarda tutti i cittadini, coloro che hanno pagato i pedaggi. Peraltro magari si tratta di 2, 3, 4, 5 euro pagati, che fa uno? Deve fare un ricorso, deve fare richieste di rimborso per 5 euro? Insomma, mi sembra un po' un classico pasticcio all'italiana. Sta di fatto che vedremo come si risolverà. Sicuramente un altro tema di cronaca molto sviluppato lo troviamo sul fronte della scuola. Sul fronte della scuola, perché ci sono tutta una serie di manifestazioni di precari che stanno digiunando, stanno facendo lo sciopero della fame, stanno contestando. Il Manifesto intervista pagina 3 Giacomo Russo, 31 anni, siciliano, in sciopero della fame dal 17 agosto, ha avuto anche uno svenimento. Il Giornale dice: beh, meglio che sciopirino piuttosto che occupino le scuole, digiunino pure. E sta di fatto che il tema della scuola si propone come ogni anno abbastanza in modo classico. Io voglio però andare, per le due segnalazioni conclusive, a due storie di cronaca. Una è quella che ho anticipato ieri da Libero. Libero la lanciava con Cristiana Lodi e oggi è ripresa da tutti i giornali perché è inevitabilmente una storia che fa discutere, vale a dire quella di Gianfranco Stevanin, accusato di 6 omicidi, deve scontare l'ergastolo, ma che ha scoperto la fede dopo la morte della madre. Oggi Cristiana Lodi fa una seconda puntata su questa vicenda e ora ha deciso di farsi frate. Oh, è un percorso difficile intanto dal punto di vista tecnico, visto che Stevanin deve appunto scontare l'ergastolo, ma Cristiana Lodi fa sapere che in realtà è un ergastolo che può essere mitigato dalla riduzione della pena, la cosiddetta libertà anticipata, già in parte ottenuta dal pluriassassino con un'ordinanza pronunciata nel 2004 dal Tribunale di Sulmona. Tra l'altro Gianfranco Stevanin si è comportato da carcerato modello in questi 16 anni, non ha mai creato alcun tipo di problemi, si è adattato alle situazioni più ostili del carcere, scrive Cristiana Lodi. Una volta ha salvato anche un compagno di cella da un tentativo di suicidio e potrebbe ottenere dei permessi premio e quasi quotidianamente c'è un francescano che lo incontra regolarmente in cella allo scopo di valutare la sincerità della sua aspirazione religiosa. Il suo avvocato del tempo, Cesare Dalmaso, dice: non mi stupisce per nulla, ha ricevuto un'educazione cristiana, ha studiato dai salesiani e dopo l'arresto è diventato anche praticante assiduo. Insomma, Stevanin folgorato dopo la morte della madre, oggi Libero titola per il secondo giorno su questa vicenda che davvero fa abbastanza discutere per anche tutti i risvolti legati alla questione dei parenti delle vittime. A proposito di parenti delle vittime, segnalo anche in conclusione una bella intervista che Aldo Cazzullo fa a Kim Rossi Stewart, l'attore che interpreta Renato Vallanzasca. Il film verrà presentato lunedì prossimo alla Mostra al Cinema di Venezia. C'è anche oggi, credo, che esce il libro che sicuramente leggerò, di Leonardo Cohen, che è un giornalista anche di Repubblico. Renato Vallanzasca, L'ultima fuga, è scritto a quattro mani da Leonardo Cohen e Renato Vallanzasca. C'è anche un'intervista all'editore Dalai, editore di sinistra, che però dice non c'è problema a pubblicare questo libro, che fa molto discutere, come il film di Michele Placido in cui Kim Rossi Stewart interpreta Vallanzasca, ma dice Kim Rossi Stewart: non bisogna fare film solo su Padre Pio, io faccio l'attore, non giudico il personaggio ma cerco di esplorarlo e farne emergere più aspetti possibili. Insomma, sbagliato accanirsi su Vallanzasca, così parlò Kim Rossi Stewart, che ha il volto e le fattezze del bel René nel film di Michele Placido. Ci fermiamo. Avete mai rinunciato o rinunciate a fare un figlio per problemi economici? Questo è il tema del nostro sondaggio. Radio24.it per votare. Ci sentiamo dopo il GR.